Io vi ho accennato soltanto a qualche circostanza, ma sentirete anche voi, avrete incontrato altre persone che, nonostante abbiano il corpo fatiscente, hanno delle idee così grandi. E il corpo le impedisce queste realizzazioni, ma intanto noi le sentiamo dentro e una di queste oggi siete pronti a riceverla. Quando sentite una voglia matta di essere buoni, santi. State attenti che quello è il campanello, quello è la sirena, quello è lo squillo che vi dice: tu sei fatto da Dio e per Dio. Dio solo è buono. Immensamente buono, e se tu in questo momento senti il desiderio di diventare buono, buono, buono, magari anche santo, questa è una teofania, manifestazione di Dio dentro di te. Oh, io non l'ho mai provata. No, l'avete provata, sì. Avete avuto dei momenti di allegria. Allegria, canto, grida, battimani ieri. Sì, questo dice, che voi volete essere buoni, di una bontà che non avete mai avuta, della stessa bontà dell'Eterno, di Dio. Questo non dimenticatelo mai, è segno di Dio dentro di voi. Satana non insegna ad essere buoni. Dio solo è buono. Tutti noi, quando ci sentiamo spinti a fare un proposito di bontà e di santità, facciamo l'esperienza di Dio. Dio. Se poi siamo stati cattivi, peccatori, cocciuti, ostinati, e di punto in bianco sentiamo la voglia dell'innocenza, della bontà, della santità, dite pure, è Dio questo che si fa intendere dentro di te, ti fa sentire i fremiti della sua immensa grandezza, della sua immensa bellezza, della sua immensa grazia. È Dio che ti ha suggerito questo. Noi andiamo in cerca di chissà quali libri e studi per capire che Dio è dentro di noi. Eppure, un pensiero buono, un desiderio di bontà non può venire che da Lui. Vuol dire che l'abbiamo di casa. Dio ci è di casa. Questa casa, la vostra persona, è di casa. E perché qualcuno non dica: ma io sono un povero diavolo, non venga, no, no, io no, no, no, no, no, non è di casa Dio con me. Dio avrebbe schifo di me. Oh, sappi che quando Dio si è fatto Gesù di Nazareth, è andato in cerca di quella povera gente di Nazareth, gente un po' difficile, scorbutica, violenta, i cittadini di Nazareth. E poi alla luce è venuto in una stalla, fuori, fuori di Betlemme, là in mezzo alle pecore, alle capre, alla puzza di quella povera stalla. Vedi, tu assomigli a Nazareth o a Betlemme, a una povera bottega di falegname senza corrente elettrica? Assomigli proprio ad una stalla? Ricordati che lui non ha fatto lo schifiltoso, è dentro di te, come fu dentro la bottega di Nazareth. Come fu dentro la stalla di Betlemme, come sarà inchiodato ad un patibolo infame sul Calvario. Oh, è molto bello questo, ditelo. A volte vi sembra di essere soli, di giorno o di notte. Volete sentirlo Dio? State zitti, pregatelo. E poi zitti ancora, ascoltatelo. Finché nel cuore si accende una luce, quella benedetta spia, tu senti la voglia di essere buono, più buono, onesto, più onesto. Sai, questo è Dio. È Dio dentro di te. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Cosa senti? Sento desideri buoni. Tu stai camminando con Dio. Satana non insegna le cose buone, non le può suggerire. Tu senti questi desideri di bontà. È Dio che cammina con te. Dimmi cosa senti e ti dirò con chi ti trovi. Dimmi cosa senti nell'anima e ti dirò chi c'è nella tua anima. Io ho trovato dei poveri diavoli che l'avevano combinato di cotte e di crude nella vita, ma diventati così buoni, così buoni, così buoni. Ma chi ha potuto fare un cambiamento di questo genere se non Dio? Ma chi può fare un miracolo di questo genere se non Dio? Chi ci può mettere nell'anima pensieri così belli, così nobili, propositi così di santità, di bontà, se non Dio? A volte mi viene il dubbio, chissà se Dio, ma no, ascolta, raccogliti un po' in te stesso. Che voglie senti dentro di te? Ah, io sono papà di famiglia, voglio proprio servirla bene, la mia famiglia, voglio essere di buon esempio ai miei figli, anche consumare la vita per la mia moglie, la mia famiglia. Oh, nel lavoro, nell'impiego, voglio essere competente, esatto, onesto. Nei rapporti con gli altri, del bene a tutti, del male a nessuno. Alto là, chi è che parla così dentro di te? Dio. Ma così grande? Sì. Stai ben attento, che le voci della tua anima sono lì che ti gridano che Dio è nella tua anima, è di casa. E la tua anima è diventata come sua scuola e lui ti è maestro, insegnante di cose buone, di cose ottime. Ce l'hai in casa.